Savonarola, il frate che sfiammò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, in un'Italia che guardava alla Svizzera come terra di povertà e di ristrettezze, dove, per la scarsità di risorse economiche e i lavori primari e poco remunerativi, a frotte emigravano verso Australia e Stati Uniti, e lette oggi da me in un'Italia che guarda alla Svizzera come terra di ricchezze e di opulenza, dove, per l'afflusso di capitali da tutto il mondo e i lavori altamente specializzati e molto remunerativi, a frotte vi emigrano da Australia e Stati Uniti. Sfatiamo un mito però: in Italia e in Svizzera gli stipendi al lordo sono praticamente identici, solo che in Italia al lavoratore viene dato in mano il netto e trattenute alla fonte spese sanitarie e contributi, mentre in Svizzera al lavoratore viene dato in mano il lordo, ma per legge è costretto a versare spese sanitarie e contributi. Dunque, in tasca allo svizzero rimane lo stesso che all'Italia. Italiano, perché Cesare non è fesso né di qua né di là dalle Alpi, e i poveracci sono e restano poveracci sia di qua che di là dalle Alpi. D'altra parte, non fu mai sì vagarosa che non diventasse un grattaculo. Serio, capitolo 40, l'Eterno Secondo. L'anno 1497 volgeva intanto al suo fine e la Repubblica era stanca della lentezza con cui procedevano le trattative col Papa. S'era inviato a Roma Messer Domenico Bonzi come nuovo oratore, a ciò insieme col Bracci sollecitasse la causa del Savonarola e conducesse ad un qualche termine la decima sopra i beni ecclesiastici ed altre cose di importanza, ma tutto era invano. Il Santo Padre rimetteva sempre ogni altra faccenda sino a che non fosse assettata e ordinata quella del frate, il quale egli voleva averne le mani e la Repubblica non voleva né poteva concederlo. E se i magistrati erano stanchi del vano temporeggiare, più stanco assai ed impaziente ne era il Savonarola, cui il lungo silenzio diveniva oggi mai incomportabile. Erano più di 6 mesi che, chiuso nella sua cella, non aveva fatto altro che esporre negli scritti la sua dottrina e difenderla da tutti i lati. Aveva provata la nullità della scomunica, dimostrato che un buon cattolico può resistere agli ingiusti comandi di un papa male informato e corrotto. E finalmente egli aveva, col trionfo della croce, messo un monumento perenne della sua fama e della sua innocenza. Niuno oggi mai poteva più credere che volesse dividere la Chiesa a colui che sì esplicitamente aveva riconosciuto l'autorità delle somme chiavi e che solo protestava contro l'osceno e inverecondo abuso ne facevano i tristi. Il Papa stesso non ardiva a accusare la sua dottrina, i cardinali dopo lungo esame non potevano appuntarla in nulla. La lotta del Borgia col frate era evidentemente una lotta politica e personale, che diveniva sempre più scandalosa, che ogni giorno faceva trionfare il malcostume in Firenze ed empiva la città delle più strane dicerie, l'attendere riusciva perciò vano e pericoloso. Nel giorno di Natale finalmente il Savonarola ruppe ogni indugio e celebrò le 3 messe solenni, comunicò tutti i suoi religiosi ed una gran moltitudine di secolari che era accorsa, fece poi una solenne processione nella piazza di San Marco seguito dai suoi frati. In questo mezzo molti amici, avendo già col consenso della signoria rimesso in Duomo i soliti gradini e le panche, venivano a sollecitarlo istantemente perché ripigliasse la predica ed egli, che non aveva gran bisogno d'essere sollecitato, promise di risalire sul Pergamo nella prossima domenica della settuagesima, 11 febbraio 1498. Vi si oppose l'arcivescovo di Firenze Messer Leonardo de' Medici, il quale con ordine espresso non solo proibiva severamente ad ogni ecclesiastico di assistere alla predica, ma imponeva ai parrochi che insistessero presso i loro popoli sulla gravità ed importanza della scomunica, minacciando a chiunque andasse a udire il Savonarola che non sarebbe da essi ricevuto né alla confessione né alla comunione né alla sepoltura in luoghi consacrati. La signoria perciò vi pose subito rimedio col partecipare al vescovo che, se fra 2 ore non si dimetteva dal suo ufficio, sarebbe dichiarato ribelle. E così, nel giorno stabilito, la predica incominciava senza trovare alcun ostacolo. La novità del caso e l'audacia del frate richiamavano un uditorio oltre il solito numeroso. La scomunica, l'autorità del Papa, la libertà della coscienza nel resistere ai comandi ingiusti dovevano naturalmente essere il soggetto principale di questi nuovi sermoni. Poi, il giorno 15 di quel mese, fece in San Marco una lezione intorno all'ufficio e carattere del sacerdote, ed i vizi del clero furono allora terribilmente condannati. Avanti che finisse il carnevale, fece il Savonarola altre 2 prediche. Nella prima di esse, fatta la domenica della sessagesima, 18 febbraio, discorreva intorno al Papa e alla sua autorità. Nella domenica della quinquagesima il Savonarola fece l'ultima predica di quel carnevale trattando il medesimo soggetto coi medesimi argomenti. Il Savonarola conchiudeva quella predica annunziando che nell'ultimo giorno di carnevale avrebbe celebrato una messa e data al popolo una solenne benedizione nella piazza del convento. «Quando io sarò col sacramento in mano», egli disse, «prego ognuno di voi che faccia fervida orazione al Signore, perché se quest'opera non viene da Lui, mandi un fuoco che mi assorba nell'inferno». Era quella fede cieca e superstiziosa nel soprannaturale da cui il Savonarola non seppe mai liberarsi e che minacciava sempre d'essere causa della sua rovina. Egli era certissimo che il Signore avrebbe fatto qualche gran miracolo a provare la verità della sua dottrina quando l'ora del cimento fosse venuta. Lo diceva e ripeteva con una ingenuità importuna e singolarmente adatta a far nascere nei suoi avversari il desiderio di prenderlo in parola. La solennità dell'ultimo giorno di carnevale fu certo delle più singolari. Dopo la messa solenne, una gran moltitudine venne comunicata per le mani del Savonarola che, fatta una processione per il convento, salì sopra un pergamo di legno costruito a bella posta sulla porta principale della chiesa. Ivi, mentre che gli altri frati cantavano salmi, fece alcune orazioni. Si volse quindi a tutto il popolo radunato nella piazza, gli rammentò di fare la convenuta orazione, prese in mano il sacramento e benedisse la moltitudine prostrata e commossa. Dopo desinare, il popolo andò nuovamente in processione per la città onde raccogliere limosine e fare il secondo bruciamento delle vanità. Questa volta però sebbero a soffrire ingiurie ed insulti dai compagnacci, i quali a chi strapparono il mantello e levarono di mano le crocette rosse, a chi tirarono colpi con pietre o bastoni. Arrivati finalmente nella piazza dei signori vi trovarono apparecchiata la piramide delle vanità, il cui valore, se bisogna credere al burlamacchi, superava questa volta a quello dello scorso carnevale. Sulla cima di essa v'era un'immagine in rilievo di Lucifero circondato dai sette peccati mortali. La moltitudine radunata intorno alla piramide cantò il Te Deum, e poi fu appiccato il fuoco e compiuto il bruciamento tra le grida di frenetica esultanza. La processione volse allora il suo cammino verso la piazza del Duomo e qui vi si fermò per dare le limosine raccolte ai buonomini di San Martino. Procedette quindi verso San Marco, dove piantarono il crocifisso in mezzo alla piazza. Intorno ad esso frati e secolari, dandosi la mano, formarono tre cerchi e girando cantavano salmi e canzoni spirituali. Così ebbe fine il carnevale dell'anno 1498, nel quale s'erano da capo ridestate le passioni, eccitati gli animi e c'era grande aspettazione di cose straordinarie. Le nuove prediche del Savonarola, sia per la forza delle ragioni che adduceva, sia per la loro grande audacia, erano accolte dal popolo con favore grandissimo e sempre crescente. Appena finite erano subito stampate in opuscoli separati e correvano per tutta Italia e fuori. Il Savonarola diceva: «Perfino d'Alemagna ci vengono lettere dei nuovi seguaci che va acquistando la nostra dottrina». Era cominciato per tutto un fremito generale contro la corte di Roma, il che metteva Alessandro Borgia in quel furore che ognuno si può immaginare. «A Roma», così una delle tante lettere che si scrivevano allora su questo soggetto, «a Roma si è cominciato a sentire il suo nuovo predicare e fannone gran caso. Io dubito di più serrata guerra e che cominceranno a venire ad arme corte. Il nostro ambasciatore che si trova colà ne comincia ad avere paura». Infatti ogni giorno arrivavano lettere degli oratori di Roma e Messer Domenico Bonzi scriveva: «Io sono assalito da una moltitudine di cardinali e prelati, i quali tutti vengono a biasimare fieramente la condotta della signoria e dicono del grande sdegno del Papa. Voi avete qui tanti nemici che soffieranno tutti abilissimamente in questo fuoco». Ormai nella corte di Roma non si ragionava più d'altro che dell'audacia di questo frate, il quale non voleva riconoscere autorità superiore a quella di Dio e della propria coscienza. Queste voci risuonavano continuamente alle orecchie del Papa, il cui furore era talmente cresciuto che minacciava d'ora in ora dover prorompere. E fra coloro che più indefessamente s'adoperavano ad aizzarlo, v'era quel frate Mariano da Gennazzano che aveva giurato di compiere la sua vendetta ed ora vedeva avvicinarsene il tempo. Tali e tante furono le accuse da lui mosse contro alla dottrina del Savonarola che finalmente ricevette dal Papa commissione di confutarla pubblicamente in sul Pergamo. Nella prima domenica di Quaresima la chiesa degli Agostiniani in Roma era piena di una moltitudine insolita. Innanzi al maggiore altare stavano seduti molti cardinali e prelati di grande autorità, venuti tutti per assistere alla predica di Fra Mariano. I fatti però non risposero punto al nome che egli aveva di grande teologo ed oratore. Incominciò a parlare dell'autorità del pontefice e dello Spirito Santo che discende in lui come negli apostoli, ma in luogo di definire e di confutare, fin dal principio si lasciò vincere dall'ira e proruppe gridando e schiamazzando in parole quasi oscene. Questo è il vero lume, non quello del ferrarese che predica nel lume del diavolo e ardisce dire che il papa è ferro rotto. L'ebreone, il ribaldone, il ladrone che ha rubato danari ai tesori nascosti. O papa, o cardinali, come sopportate voi questo mostro, questa idra? È venuta dunque a tale l'autorità della Chiesa che un briacone come questo se l'abbia a gettar sotto i piedi così vituperosamente? O collegio, o pontefice, pigliate provvisione. Voi non sapete quello che egli si macchina e dirà cose da far oscurare il sole, ma voi non provvedete, ormai vi si può fare le fiche negli occhi che se non fosse per reverenzia ve le farei. E non di meno, volgendosi verso i cardinali, fece l'atto osceno e gridava che pareva un energumeno. L'uditorio rimase scontentissimo d'un predicare così plateale e i cardinali, che si aspettavano una confutazione ragionata, non poterono fare a meno di non manifestare continuamente coi cenni del capo la loro disapprovazione. E così il Gennazzano si trovava anche allora sconfitto.